Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Il più grande di tutti, sti fighetti qui, Messi, sono 1,60 m, ma la fisicità, la tecnica, la classe, la forza, ma questo è il più grande di tutti, ma non c'è nessuno come lui. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberone in mano. Notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni. Notte di sogni, di coppe, di campioni. Tu sai che Luigi Pardo, che a me piace il crossover, no? Ti piace? Il crossover radiofonico. Il crossover, certo. Oggi ne facciamo parecchio di crossover, eh? Tantissimo. Sai chi c'è con me, no? Federico, no. Taddia. Ah. Un idolo assoluto che... Siamo al top. Siamo al top. Che questa sera dalle 21 a mezzanotte accompagnerà gli studenti, come fa tutti gli anni, verso la maturità. Ciao Fede. Ciao, eccoci qua, eccoci. Ciao qua. Fede, chiamaci stasera, dalle 21 in poi. No, noi chiamiamo lui. Da dare agli studenti. Senti, ma voi che tema avete fatto? No, non mi ricordo. Anche, non mi ricordo, ci ho pensato, ogni anno ci penso, non mi ricordo. Io ho fatto di dare un tema su... Tu che tema hai fatto, Pardo? Era uscito un tema di letteratura, ma era uscito un tema abbastanza strano che nessuno si aspettava su, credo, degli scrittori del Novecento, abbastanza sconosciuti. E mi ricordo soprattutto che io ho ancora un grosso problema di calligrafia, che mi c'è nulla, e quindi diciamo ho passato... tipo 2 ore a scrivere il tema e 4 ore a cercare di renderlo comprensibile. E quindi ho scritto tipo i bambini, la calligrafia di un bambino della fila, perché la mia non si capisce. E la capiva sempre la mia professoressa. Però insomma, dai, bel ricordo, no? sì, meraviglioso. Ti sembra la finale di Champions? Posso dire a tutti gli studenti, cioè la maturità per molti all'inizio è un incubo, poi diventa un bellissimo ricordo, anche per i calciatori che la fanno, Sì, perché è roba di squadra, alla fine comunque a parte che sai che sono, cioè, stai salutando i tuoi compagni di squadra, i tuoi compagni di classe, perché dopo la maturità non li vedi più, quindi c'è comunque anche questa consapevolezza. E poi è un'avventura, come tutte le avventure hanno anche dei momenti tosti, ma ricordi belli. Ogni tanto bisognerebbe fare un sano esame di maturità alle persone, perché poi alla fine della vita invece molte delle cose dell'età adolescenziale, dell'età infantile sono estremamente utili e sono decisive, per cui benissimo certamente diventare persone responsabili, credibili, impegnate, che si alzano tutte le mattine e vanno a lavorare, però insomma è anche importante secondo me nella vita fare il contrario, no? Conservare in certi momenti la capacità di emozionarsi, la capacità di fuggire con la fantasia, e queste cose qui che se vuoi appartengono più alla sfera dell'immaturità, insomma nella vita ogni tanto bisogna farci l'esame per vedere se ce l'abbiamo ancora. Capacità. Che è fondamentale, no? Quel pizzico di Peter Pan che è dentro ogni sportivo e che resta lì, perché non c'è uno sportivo che non sia un po' Peter Pan, no Fede? No, insomma la parte... Hai conosciuto qualcuno di sportivo che non fosse Peter Pan? No, insomma la parte del gioco ogni tanto se la ricordano, per fortuna, no? Che alla fine la parte bella dello sport. Senti, ma tu sei di 100? Attenzione, Pieve di Cento, Bologna, lo sai che ragione, ci teniamo. Hai ragione, perdonami, Pieve di Cento, però quest'anno Bologna in Serie A, Reggio Emilia del basket che magari vince lo scudetto. Chi può essere più felice di voi sportivamente parlando? No, no, infatti è stata un'ottima annata. Il Carpi. Il Sassuolo che ha fatto una bella, un'ottima figura. Sembra anche il Parma. Non volevo interrompere questo quadro. C'è anche Cesena. Rimaniamo nella stessa regione. Però c'è la Fortitudo che mi è tornata in A2 nel basket. Ma tu sei virtussino. Sono virtussino, però... Però Fortitudo, tornati in A2 nel basket. Beh, insomma, una grande stagione per la tua terra, sportivamente parlando, no? Assolutamente, no, contenti. Poi dai, cioè, il Bologna è stata un'annata strana, è finita con la Serie A, poi ci sono questi americani, insomma, c'è una strana aria rosso-blu in città che è anche divertente, stimolante. Poi il bolognese guarda con un po' di distacco, c'è un po' di scetticismo, però insomma c'è anche la Ferrari non sta andando male, eh? Anche la Ferrari, no? Sì. Non sta andando male, sì. Eh? le moto. Valentino che magari vince il mondiale, sai chi sentiamo dopo? Io parlo. Ah, sì? Un tuo amico Marco Berinelli. Attenzione, eh? Marco Berinelli, che conosci, no? Certo, abita a pochi chilometri da casa mia, San Giovanni Persiceto. Dimmi una cosa su Berinelli. Bellinelli, portiamolo alla Virtus. Non sarebbe facile. Già fatto, difficile. Gioca con il colore bianco e l'anima. Dimmi una cosa su Bellinelli. Cosa Bellinelli? Mi ricordo che l'ho intervistato proprio per la notte prima degli esami e mi diceva che il suo problema era il letto troppo corto a casa sua dove dormiva. Sì. Questo lettino in cui secondo me dormiva quando c'è stato il terremoto, perché era comunque in Emilia in quei giorni. Però San Giovanni per fortuna fu colpito relativamente meno. Insomma, mi ha fatto questo ricordo sulla notte del terremoto, lui nel suo lettino da bambino, nella cameretta. Fede, grazie, buon lavoro, ci sentiamo stasera. Grazie a voi. Dalle 9 a mezzanotte. In diretta qui con i ricordi, ti aspettiamo. Noi chiamiamo lui, che chiamaci. Chiamiamo noi, 0024, chiamiamo anche gli ascoltatori. Tutti convocati, Federico Taddia, grazie. A dopo, ragazzi. Secondo me questo è tutto da rifare. Tutti convocati. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Tutti convocati. Questo messaggio è meraviglioso. Parlavamo di maturità. Marco da Bologna, guarda caso, scrive: non li vedevi più una volta i compagni di classe, adesso c'è Facebook e mi rompono i maroni di nuovo. Capito, Pierino. Adesso addirittura vedi quelli di 30 anni prima, sì. Li vedi tutti con delle alopecie imbarazzate. Io mi metto per primo, io ero preso 47-48 al 10, però vedi proprio lo spascio fisico. No, sto scherzando, è anche molto bello. Io amo molto Facebook, cioè diciamo, allora è divertente l'idea di recuperare i contatti con delle persone che non vedi da 20 anni. Però il fatto che l'obiezione è tutto, se non li vedi da 20 anni, una ragione ci sarà. No, ma soprattutto che ti debbano raccontare qualsiasi cosa, se gli hanno fregato la macchina, se c'era una ruba bucata, se gli hanno fatto la multa, cioè basta. Pure veramente certe volte sembra la gente andare in giro per fare le foto e dire guardate quanto sono figo che sto qui, però vabbè. Allora io voglio fare delle domande oggi. Allora voglio chiedere, e tra poco lo farò, ad Antonio Giordano del Corriere dello Sport quale tema ha fatto la maturità. Voglio chiedere ai tifosi della Juventus chi vorrebbero se Tevez dovesse andare via, e andrà via, ci sono contatti con il Boca, quindi probabilmente tornerà a casa per 5 milioni di dollari l'anno, che non è poco. Voglio chiedervi i nomi, possono essere, non so, diteli voi, comunque vi do qualche dritta: Falcao, Van Persie, Cavani, Zecco, Mandzukic, Higuain, perché no Ibrahimovic, che comunque andrà al Milan. Oggi è il primo giorno ufficiale di Mihajlovic, allenatore del Milan, perché la notizia della mattina è che non si è raggiunto un accordo con Inzaghi e dunque è stato timbrato l'esonero, e Mihajlovic era a casa Milan, è stato fotografato, è iniziato, sì, è una storia piuttosto triste. No, ma anche insomma, se veramente è che insomma Inzaghi non ha fatto un piccolo sconto per la recessione, insomma. No, lui è tosta, lui è duro. Sì, cioè, però testa secondo dura, me, cioè, secondo me sarebbe stato meglio evitare il timbro della. No, ma anche per lui, no? Sì. Perché magari fra 5 anni Inzaghi sarà nuovamente pronto per il Milan, magari pure prima. Uh-huh. Io penso che chiaramente è un allenatore giovane, ragazzo intelligente, e quindi potrà fare anche cose importanti in carriera. Francamente, chiudere così col Milan, non so dirti la differenza economica, non la so, si parla di no, ma più che altro di sì, però è una cosa, una storia più che altro di immagine, cioè Inzaghi, appunto, Inzaghi forse... si è impuntato, è la capa tosta, come direbbe Antonio Giordano. Ciao Antonio. Ragazzi, provo a fare il serio oggi, l'ultima performance ha lasciato tracce. Veramente? Sì, dopo che no, ma ti prego. Ieri l'ultima performance dato. Con Pardo è stata scioccante, ragazzi. Perché? Che è successo? Non mi sono ancora ripreso, faceva l'altro giorno ero sulla 3, stavo tornando da sud, a un certo punto ho visto Cava dei Tirreni, mi sono commosso. Ecco, ti sei fermato? Ho pensato a Giordano, mi sono commosso. No, mi sono fermato a Eboli. Scusa, grande citazione. Sì. 800 24 00 24, numero verde. Antonio, che tema hai fatto alla maturità, te lo ricordi? Come no, chi lo dimentica? Asino, com'ero, ho avuto un colpo di fortuna perché ero già proiettato in questa professione, sognavo con tra le prime radio libere e le prime TV, e venne fuori un tema meraviglioso sul potere dei media. Era l'epoca in cui nascevano appunto le TV private, le prime televisioni, quindi le prime radio. Ed era un periodo lo ricordiamo, Antonio Giordano non è giovanissimo, erano gli anni di Marconi, no? Quella è un'altra cosa, vedi, fai figurare, hai fatto tu, cioè sembri mio nonno. Che cattivo che fai. Che sta. Quindi hai fatto quel tema lì. Dimmi. Soltanto una cosa, non farmi mai più domande sulla mia carriera da scolare. Va bene, ok. No, prometto. Perché ho due figlie, non è il caso che sappiano, ecco. Senti, vi faccio tre nomi, giusto sempre così per giocare, li faccio anche agli ascoltatori. 800 24 00 24, la maturità quest'anno è per gli anni 96-97. Vi dico tre giocatori, uno del 95. Sì. Avevo 26 anni nel 97. 97 è l'anno in cui è nato Federico Bonazzoli. Allora, classe 95 Petagna, classe 96 Scuffet, classe 97 Bonazzoli, attaccante dell'Inter. Chi secondo voi tra questi tre arriverà alla maturità calcistica? Bonazzoli. Scuffet. Antonio? Scuffet. Petagna non lo vota nessuno, me lo prendo io. Ok, solo perché tre. Ma che ne so, dai. Okay, tipo la 1, la 2, la 3. Esatto. Il mitico Mike. Esatto. Stiamo giocando. No, ma con Antonio Giordano volevo parlare in realtà del Napoli minimalista che sta nascendo. Sarri, Valdifiori, Isai. Una volta si parlava di altri nomi, di altri giocatori, di altri interpreti, di internazionalismo, del raffaelismo, come piace dire a Pardo. C'era adesso è tornati al mazzarresimo, forse. Oddio. No. Intanto la cosa è sempre più vero, perché ho fatto bene a chiamare Pardo Pardone, che non significa un grande Pardo, ma il Pardo numero uno. Perché fa passare me agli occhi tuoi come uno che sappia le cose, io invece non so un bel niente, ragazzi. Quindi, no, diciamo, ma è solo sensazione. Bravo, ecco, chiamiamole se vogliamo sensazioni. Siamo passati al Napoli minimalista, sì. Siamo passati dal grande progetto dell'internazionalizzazione anche a quella della napoletanizzazione con la squinizzeria, un Napoli che invece per ora insomma sceglie l'altro film. Però devo dire la verità, mi sembrerebbe di fare un grosso torto a Maurizio Sarri mettendolo su questo piano, perché credo che la statura del suo calcio non meriti l'etichetta del ridimensionamento. Se sarà bravo potrà dimostrarlo, perché comunque parte da una grande squadra. E però è certo che il messaggio che sta passando in questo momento è quello di una società che ha qualcosa da rivedere all'interno dei suoi stessi costi, e quindi da Calleion, Mertens, Higuain, passa a Isai, a Valdifiori, esatto. probabilmente a Pepe Reina. Sì, però, Pepe Reina che è stato oggi praticamente liberato. Certo, però c'è una cosa da aggiungere, che altrimenti sembriamo troppo severi. La Juventus è grandissima, sembra faccia quasi un altro sport e rappresenti un altro mondo. La Roma sta avvicinando col progetto stadio, la Lazio sta facendo cose miracolose, ma il Napoli viene subito dopo, perché non va dimenticato quello che ha fatto in 11 anni e che ha la forza di credere in se stessa attraverso un progetto che tutela il bilancio. Non mi sembra poca cosa. No, sono anche bravi a scegliere i giocatori in provincia tanto di guadagnato. Sì, se però adesso mi dicono Pierluigi va via Higuain, magari alla Juventus, e arriva magari al suo posto Ciro Immobile, onestamente mi viene da ridere. Un anno fa si parlava di Mascherano, adesso si parla di Higuain. Higuain alla Juve, poi voglio sentire che ha pensato lo Giordano. Higuain che vada via, si può stare, come direbbe qualcuno che conosciamo, ci può stare. No, io credo che il Napoli abbia una base molto, molto importante dal punto di vista tecnico. Paradossalmente, secondo me, è forse anche più semplice la situazione del Napoli rispetto a quella della Roma. Se il Napoli avesse avuto le risorse della Champions League, poteva. Cioè, il Napoli ha dei punti di forza molto evidenti e dei punti deboli molto evidenti. E secondo me, sinceramente, un punto debole è stato Benitez. Lo dico nella seconda stagione, lo dico con rispetto, simpatia. So benissimo, magari tra un anno Benitez vince la Champions League. Però io credo che si debba essere laici e quindi si deve valutare quello che un allenatore ha fatto. Questo allenatore lo scorso anno secondo me ha fallito, perché non arrivare tra le prime tre in campionato è una cosa che secondo me per la qualità tecnica del Napoli non è inimmaginabile. Sì, è inimmaginabile. Per il campionato che è stato soprattutto. La Lazio ha fatto cose eccezionali, ma la Lazio si è svegliata nel 2015. Se la Lazio alla fine del girone andata è una squadra da metà classifica o poco più, la Roma ha fatto una seconda parte tremenda. Quindi il Napoli secondo me l'anno scorso, lasciando perdere le coppe, dove ci sta la sfortuna sicuramente, l'arbitraggio ridicolo nella partita d'andata contro il Dnipro, gli errori di Higuain, lì non è colpa di Benitez, però nelle 38 giornate doveva dare una quadra a questa squadra, non l'ha fatto, punto. Poi si verrà a vincere, è un grande allenatore, è una bravissima persona. È come punizione è andato dietro la lavagna al Real Madrid. Ma Antonio. ma io non sarei stupito se fosse. No, non, vabbè, ma cioè, io penso Madrid che è un bravissimo allenatore, però penso che tendenzialmente di vincere. Sì, male, sì. Fatto male ecco, e come castigo è andato al Real Madrid. Antonio Giordano. Ma dato che io voglio molto bene a Pardo, la penso in maniera ovviamente opposta. Sì. Perché penso che è indiscutibile sto quello che ha detto lui, Gigi. Cioè, il risultato alla fine non si spiega, però se rimaniamo aggrappati purtroppo a questa logica non usciamo mai. Devo dire che il quinto posto fa venire l'orticaria, ma non possiamo dimenticare che a 14 minuti dalla fine il Napoli era terzo in classifico potenzialmente, perché hanno dato un rigore a Higuain e gli hanno detto prenditi l'Europa. Poi è andata così e ci sta, sì, tutto. Però non devi arrivare lì, però. Quella partita lì, cioè, se tu mi fai questo discorso qui, allora io ti dico che senza il colpo di testa di Yang Ambiwa, cioè senza quest'atto, diciamo, di professionalità estrema, sì, no, della Roma, quella partita lì non aveva. Per me il Napoli, per la forza che ha giocato, deve arrivare terzo. Non deve ridursi così, Antonio. Siamo d'accordo. Le ultime 8 partite, per me deve arrivare secondo. Con una Roma così, il Napoli deve arrivare secondo affatto, per me, per le qualità che ha, che poi sono chiaramente molto più davanti che dietro. Per questo ti dico che secondo me la squadra, al di là del fatto che adesso non hai chiaramente i soldi della Champions League e non è un dettaglio, e questo è il problema vero. La base mi spiace, è terribile, ma sono d'accordo con Pardo, Antonio. La base è molto buona, Higuain, Iecon, anzi Gabbiadini. Si è preso Gabbiadini in metà stagione, Gabbiadini. Se ce l'avesse avuto la Roma, che non riusciva più a segnare neanche dal fornaio, neanche con le mani, e che aveva questo problema, si è aggrappata alla forza della difesa, alla tenacia in alcune partite, per esempio quella contro il Napoli, del derby vinto contro la Lazio. Ma dal punto di vista offensivo la Roma aveva maledettamente bisogno. Guardalo, fermate o lo abbatto come stanno facendo? Abbatti che poi abbiamo la borsa. Dimmi, abbattimi, Antonio, come il tonno. Dimmi, Antonio. Tutto vero, e per l'amor di Dio sono punti di vista assolutamente. Continuo a pensare però che purtroppo stavolta per il Napoli i dettagli, che sono stati abbastanza rilevanti, hanno modificato la sua storia, senza dimenticare che però il Napoli è anche la squadra che ha subito 53 gol, e quindi questo rappresenta un elemento che onestamente merita di essere analizzato e di rientrare tra le critiche che vanno poste a Benitez. Non mi foderò gli occhi, ritengo che sia stata una grandissima occasione persa per la gestione complessiva della vicenda, cioè il Napoli e forse anche Benitez l'hanno persa, soprattutto il Napoli, che era stato bravissimo a prendere uno dei più grandi allenatori in circolazione. Io chiedo sempre come tipo di domanda a un tifoso con il quale eventualmente mi fermo a parlare al bar: 10 anni fa, nel 2005, dov'era il Napoli? E mi dicono in C. E se ci avessero detto tra 10 anni quel signore lì che ora sta alzando la Champions viene ad allenare il Napoli, tu cosa dici? Ma avrebbe la faccia matta. È successo. Poi è andata male, e su questo non si discute. Grazie Antonio. E io capisco anche, scusa Antonio al volo, capisco anche diciamo il dubbio dei Raffaeliti che, come ci ha spiegato Sollazzo l'altro giorno, consideravano la figura di Benitez come una garanzia di emancipazione del Napoli Calcio da una certa idea di provincialismo, poi per estremo addirittura, secondo quello che abbiamo capito, addirittura anche su contesti extracalcistici, ma questa è un'altra storia. È chiaro che con Sarri la strada è più salita, però è anche vero che poi alla fine contano i risultati, la qualità di un allenatore la deve dimostrare in ogni singola stagione, questo è un dato di fatto, e secondo me è il motivo per il quale poi Sarri può essere anche una scelta intrigante. Certo, se poi a Sarri comprano giocatori di... cioè se Sarri è soltanto un segnale di una squadra ridimensionata, questo sarebbe grave. Però per esempio Allan, se dovesse arrivare, secondo me è un giocatore top. Sì, adesso vediamo come va il mercato, vediamo cosa fa Higuain, vediamo se va via, chi arriverà al suo posto. Grazie Antonio, alla prossima, sempre un piacere. Grazie a voi, ciao, sentiamo la borsa, preparati qualche domanda per Berinelli, dovrebbe arrivare subito dopo la borsa, capito? Ci può stare. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Che dire? Arieccice. Tutti convocati. Allora, voglio fare pubblicamente gli auguri a un mio amico. Me lo ricordo un ascoltatore che ringrazia, Franco da Torino. Voglio fare pubblicamente gli auguri a Gianni De Biasi, spesso nostro ospite, CT dell'Albania, che oggi compie gli anni. Quindi lo faccio on air. Paolo, provincia di Pistoia, buongiorno. 800240024, buongiorno. La trasmissione, siete sempre grandi. Ascoltate, io volevo solo dire una cosa su Benitez. Sì. Ho sentito quella... la discussione su Benitez, la Roma, Benitez poteva arrivare terzo, doveva arrivare secondo quasi. Beh, poi ho sentito dire, ma è la difesa? Cioè, la cosa che a me, io ho giocato a calcio per tanto anno, la difesa non è una cosa da... però cioè, se l'è anche costruita lui, cioè se parliamo di fase difensiva... Non c'è dubbio, però l'ha costruita con quello che aveva, voglio dire, c'è modo e modo, cioè non è che poi mi scusi, per carità, il calcio è bello perché appunto è aperto a qualsiasi dibattito, ma è anche vero che molti dei problemi difensivi del Napoli nascono non solo dai singoli, che comunque ha comprato lui in buona parte, perché Albiol è un giocatore pagato 12 milioni che certamente lui conosceva bene dai tempi addirittura di Valencia, e che è stato preso e non, insomma, la Roma nel frattempo ha comprato e rivenduto Benatia, tanto per rimanere su quel tema lì, la Juve sappiamo che difesa ha costruito in questi anni, insomma, e poi però c'è anche la fase difensiva, appunto, altrimenti l'Empoli ne doveva prendere 100, no? Tante volte abbiamo sottolineato che il 4-2-3-1 con gli esterni di centrocampo che di fatto erano degli attaccanti ha lasciato molto, molto in difficoltà il reparto difensivo, ma ripeto, adesso non è che vuole essere un processo, io lo stimo tanto Benitez, mi è anche proprio molto simpatico, resta fatto, mi ricordo, cioè... una chiacchierata sul prato dell'Amsterdam Arena il giorno prima della finale Chelsea-Benfica di Europa League, quando eravamo due o tre giornalisti italiani e ci chiedeva notizie dell'Italia, di Roma, di Napoli, quindi sono soltanto dalla sua parte, gli auguro di fare il meglio, però credo che insomma ci voglia l'onestà è che delle volte uno fa bene e delle volte fa male. Benitez quest'anno a Napoli per me ha fallito e sinceramente se è rimasto appeso fino a quel calcio di rigore sbagliato da Higuain è anche perché gli avversari hanno fatto sciata, no? Perché la verità è questa, insomma, il Napoli è la penultima giornata in casa della Juve contro la Juve, vero. Ha perso 3-1. Ragazzi, poi non puoi, si diceva prima con Antonio Giordano, non puoi neanche ridurti a quel punto lì. Senti, parliamo con un campione, ti va? Pierluigi Pardo, senti questa. The 18th pick in the 2007 NBA draft,

700-800 km vedo delle nuvole. A 700-800 km non ti abbiamo chiamato per farci rosicare, ti abbiamo chiamato per sapere quando hai visto l'ultima volta Pippo Inzaghi, se dopo la notizia. L'ho visto ieri che giocava tranquillamente a Padova sul mare, sul bagnasciuga con i suoi amici, sempre tutto super super super sereno. Se vuoi ti faccio la lista di chi c'è qua, che facciamo prima. Vai, facci la lista. Vai. La lista, vai, pronti con la carta e penna? Vai. Pronti. Bologna, Di Vaio, Torino, sì. Quagliarella, Parma, Rosi, Milan, Zaccardo, Paris Saint-Germain, Berratti. Passiamo nel mondo. Aspetta, poi c'era Giulio Cesar. Sì. Saluta per Luigi. Grande Girone. Grandissimo. Max Lopez e Icardi che sono a Ibiza. Scusate, e Max Lopez e Icardi che sono insieme a Ibiza, no? Eh certo, con le mogli, no? In vacanza insieme. sarebbe il grande colpo dell'estate. Spero veramente. E poi abbiamo il mitico Gallinari, Gallo, con la sua banda, e dovrebbe raggiungerci Gigi D'Atome, Pepe Poeta con gli altri ragazzi. Poi c'è un giocatore del Bayern che giocava nel Barcellona. Però non so come si chiama, Il Bayer che giocava nel Barcellona. Martinez? Sarà Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Com'è? Thiago Alcantara. Perfetto. Lui è nato fra l'altro in Salento, è nato la provincia di Lecce, l'Usure Lugliento Lumare. Ma è nato nel mezzo Lupesce magari. No, straordinario. Guarda, Salento Formentera. So che voi siete un po' così, non mi interessa, c'era Parisito, c'era Belen, ma questa roba non siamo Mario, non ci frega niente. Ci interessano solo gli sportivi. Vabbè, mi sto imbarcando, ragazzi. Ti mando Pardo. Ma non mi chiedete la domanda quella vera. Cioè? Formentera calcio, oh ragazzi. C'è il Formentera calcio? Esiste. Cavolo, siamo arrivati, siamo in seconda divisione. Oh, non è. Mica siamo fortissimi. Quante divisioni ci sono sopra la seconda? La seconda, c'è la prima, c'è la. Dai, non fate questa domanda, abbiamo vinto, punto. Dai. Ma è importante, io supporto il Formentera, io lo tifo per il Formentera e per il Pontacalcio. Siamo i support del Formentera con tutti gli altri nostri amici qua. Se poi mi interessa, se poi ci sono. Beh, vabbè, niente, dai. Se non posso fare le pubblicità a tutti gli altri locali. Vi ascoltiamo tutti. E noi vi ascoltiamo con Sky Radio. Mica smacchiamo le giraffe mentre noi mandiamo avanti il paese, l'osio, mentre noi siamo qui a mandare avanti il paese, non noi ma dico Confindustria, Radio 24, io non faccio niente, faccio il jolly e voi siete lì al sole e al mare. Vabbè, ci vediamo presto e prova a trovare l'errore. Scopri l'errore. Ciao Mario. E vedi Pippo, dimmi che ci colleghiamo, facciamo un collegamento con Pippo. Vabbè, magari lo facciamo. Dai, facci da reporter. Famolo. Grazie, ciao, Mario. Ciao. Invidia a livelli stereoscopici. Ciao Pier. Sì, ti saluto, ma volevo dirti che mi ha scritto Bergomi, che magari sentiamo nei prossimi giorni, che ovviamente ci ascolta, e dice: ho capito, a proposito di Benitez, questo qui è quello che ho scritto io. Lui mi ha scritto: sono bollito, prima degli esami. Benitez più punti di tutti nella storia del Napoli, più di 100 gol e 2 coppe. Quindi questo è come fosse un tweet dello zio Bergomi che sentiremo a breve. Ciao. Discuteremo con lui di questo tema. Ciao Pierino. Allora, ci fermiamo per il GR e torniamo un'altra mezz'ora insieme. Grazie a tutti, ci vediamo tutti quanti al bar, 4 amici al bar. Tutti convocati. Ci sono notti che ti fanno diventare grande. Noi rimaniamo per sempre come siamo a 18 anni. Ci sono notti che non si possono dimenticare. Un ricordo piacevole, perché l'ho proprio affrontato in maniera un po' scanzonata quell'esame. Ci sono notti tutte da vivere e da rivivere. Non è che l'ho detto io che gli esami non finiscono mai. Questo lo dico anche ai ragazzi che domani inizieranno questi esami. Ragazzi, quella è una delle frasi più vere che troverete in tutta la vostra vita. Ci sono notti come la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 16 giugno dalle 21 alle 24 in diretta per trascorrere insieme le ultime trepidanti ore prima dell'esame. Voci e ricordi di chi ha già affrontato la maturità, paure ed emozioni di chi sta studiando, i consigli degli esperti e l'imbocca al lupo dai personaggi più amati dai ragazzi. La notte prima degli esami, una notte di tutti. Raccontaci la tua al numero verde 800 24 00 24 e sul sito radio24.it. In collaborazione con studenti.it. Tutti convocati. Corona mette in mezzo, attenzione perché è arrivato Medina, non ha concluso Uoso. E il Messico Barça in vantaggio. Cross in mezzo, il colpo di testa di Arturo Vidal e subito il pareggio del Cile al 22esimo. Il pallone era verso Raúl Jiménez, 2-1. Ancora Vidal, mette in mezzo un buon pallone, il colpo di testa di Vargas, 2-2, ancora di testa. Alexis Sanchez che si accentra, attende l'inserimento di Vidal, c'è stato un contatto. Rigore. Calcio di rigore, Vidal, 3-2 del Cile. Attenzione, a proposito, perché Uoso qui tocca in porta ed è il 3-3. Vabbè, tanto per dirvi di Coppa America, nella notte Cile-Messico 3-3 e la Bolivia che ha battuto 3-2 l'Ecuador. Questo è ciò che è successo. Siamo sul pezzo, ragazzi. Francesco Pisa, buongiorno. 800 24 00 24. Buongiorno. Buonasera, grazie soltanto, come si dice, per la convocazione. A lei. E niente, desideravo intervenire proprio specificatamente. Sì. In maniera proprio specifica, sì? Sul caso Napoli, perché per me è un caso, e in particolar modo di Benitez. Allora, Benitez ha trasgredito, secondo me, ha tradito tutti gli ideali di lealtà e quant'altro. Io la verità è che tipo Palermo, per cui lo dico come fatto sportivo, perché proprio sono indignato dall'immoralità di Benitez, che è buon per il Real Madrid, che l'ha preso in sostituzione di un galantuomo quale poteva essere Ancelotti, quale è Ancelotti, sì. Molto professionalmente, molto più preparato, anche un allenatore che volendo ha vinto qualcosina in più rispetto a voglio dire allora, il subletto, il suo diciamo pallone gonfiato, che ha anche diciamo una postura somatica che secondo me dà tutta questa impressione. E allora io voglio dire questo, De Laurentiis, poi siamo tutti come dei allenatori, direttore sportivo e quant'altro, tutti presidenti in Italia, no? Per cui insomma mi si venga dato perdono per questo. Però io il consiglio che mi sentirei di dare a De Laurentiis è quello di dire, Sarri, che è un galantuomo, è un uomo e dal nulla ha saputo creare qualcosa, sì. Primo. Legacy, non so, Val di Fiore e qualche sì, altro ha fatto un grande lavoro, ha fatto un grande lavoro a Empoli, adesso è di fronte ad una chance importante alla sua carriera, l'uomo sì. Venuto dal buio, io sì. Sì. È giusto, primo. Secondo, poi qua si è fatta la campagna mediatica vergognosa, che poi ragazzi ognuno c'ha la sua vita privata, hanno le teste che sono, ma scusate, un Cassano, un Balotelli, che però sono senza squadra e cosa va, ma perché non li prende De Laurentiis? Ah, ha paura. Francesco, questo bisogna chiederlo a De Laurentiis e a Sarri, perché non so se lui in primis io sono convinto che con Sarri in Napoli sarà un avversario duro per la Juventus. Io non ne sono convinto, anche perché voglio vedere che cosa succede sul mercato. Sarà importante vedere quale squadra verrà messa a disposizione di Sarri, perché anche lui non è Harry Potter, ha fatto grandi cose con l'Empoli, adesso vediamo chi gli vendono, chi gli prendono, eccetera. Mi sono limitato a notare che nelle ultime stagioni con Benitez il Napoli volava alto verso Higuain, volava alto verso comunque Caleon, andava a comprare giocatori del Real Madrid. Adesso i nomi che circolano sono un po' diversi rispetto a quelli. Poi vediamo quale sarà la posizione di Higuain, se verrà tenuto oppure no. Mi limito anche qui ad osservare che se Higuain dovesse essere ceduto, metti caso a Juventus, metti caso al Manchester United, ipotesi più probabile, dietro congruo compenso per il Napoli, se sono tifoso del Napoli e mi dicono via Higuain, prendiamoci l'Immobile, reduce da una stagione fallimentare, che possiamo dirlo, al Borussia Dortmund, beh, un pochino mi preoccuperei, perché mi sembra comunque una tendenza al ribasso, una sorta di ritorno al mazzarresimo, il che non è un dispregiativo, semplicemente si tratta di intendersi rispetto a quali sono gli obiettivi, a dove si vuole andare. Fabrizio Milano, buongiorno. Eccomi qua. Beh, io parto dall'ultima cosa che ha detto, non è che magari il problema è soprattutto economico, cioè io vi seguo molto, soprattutto quando c'è Bellinazzo. Domani mi risulta? Domani no, giovedì. Parleremo di Milan, parleremo di Inter, parleremo di che parliamo? La situazione è sotto traccia. Un sacco di cose. A parte voi non ne parla nessuno. No. Ma Bellinazzo nel suo blog parla di un Parma 2, cioè, quando parla del Genoa. Il Genoa non è messo molto bene. Stiamo parlando del Genoa o del Napoli? Del Genoa. Ah, del Genoa. Napoli probabilmente De Laurentiis, che non è assolutamente uno stupido, ma voglio buttare i soldi. Ma anche perché Fabrizio, fare la Champions League oppure non farla è una cosa che comporta tutta la differenza del mondo, e Napoli ha bucato l'obiettivo Champions League e dunque fatalmente dovrà fare i conti anche De Laurentiis con il grano che ha a disposizione, che non è quello che avrebbe avuto a disposizione se si fosse qualificato alla Champions League. Ma sto dicendo una fila di banalità. Quindi, quanto a Genoa, ce lo facciamo raccontare da Bellinazzo. Le voci sono tante. C'è un allenatore che è Gasperini, che ha rifirmato per il Genoa per 3 anni. Ci sono molti giocatori del Genoa che sono sul mercato, lo dicevamo anche ieri. Beh, qui si tratta di capire quali sono qual è la consistenza economica di questa società, ma anche della Sampdoria. Abbiamo sentito prima Berinelli, adesso voglio tornare al basket in questo totale crossover che è il nostro programma di oggi. Sì, abbiamo avuto qualcosa da tutti, abbiamo giocato dall'inizio a livello difensivo, non concedendo mai cose facili a Sassari, e questo gli ha tolto un po' di fiducia, però è solo un piccolo passo, adesso è ancora veramente lunga e Sassari martedì sicuramente vorrà provare a rifarsi in tutte le maniere. No, assolutamente no, io in gara, in una finale scudetto, mi aspetto il massimo ai miei ragazzi. Oggi credo che abbiamo fatto anche degli errori, ma in campo hanno dato il meglio di loro stessi. Io mi aspetto questo da qui alla fine di questa serie playoff. Questo era Max Menetti, allenatore di Reggio Emilia. Martedì, il martedì cui faceva riferimento è ovviamente oggi, giornata di gara 2. Reggio Emilia conduce 1-0 la serie con Sassari, che è una sfida inedita. Mai abbiamo visto questa finale scudetto per ciascuna delle due squadre, sarà comunque il primo titolo. Io saluto e ringrazio invece un mio amico che un anno fa, prima Benigni ci ha detto, un anno fa vincevamo titolo NBA, un anno fa Marco Crespi a che punto era della serie con Milano? Ciao Marco. Ciao Carlo, ciao a tutti. Dopo gara 1 eravamo 1-0 con Milano e con poche, perdendo molto onestamente ma molto tranquillamente, di facili 11 punti, un divario che era poi sul campo era stato più evidente da un punto di vista tecnico, poi invece abbiamo ribaltato bene la serie. Sì, ribaltato è la parola corretta, siete arrivati a un tiro dal vincere lo scudetto, da uno dei più grandi miracoli sportivi di sempre. Devo dire che insomma si è fatto molto parlare su Milano, Marco, ma ovviamente quest'anno a maggior ragione è stata eliminata. Siena quando vinceva, e tu sei stato lì per alcune stagioni. Di Milano si dice, ma non riescono a reggere il ruolo di favoriti, non sopportano la pressione, non sono magari pronti a recitare fino in fondo questo tipo di copione, e possiamo andare avanti, però mi sembrano tutte delle scuse. Sì, io credo che quando innanzitutto parli con il verbo alla terza persona plurale, poi bisogna vedere chi sono il loro, sì, perché negli anni si sono succediti tante allenatori, tanti giocatori, e direi che Siena era paragonabile a Milano per la possibilità economica di firmare giocatori migliori, però Siena macinava gioco e macinava risultati. A Milano non è mai riuscito. Sì, soprattutto non c'erano mai discussioni, no? Cioè si sapeva come finiva il film e finiva invariabilmente in quella maniera lì. Sì, e penso che Siena era capace di vincere partite anche di 25 punti nella finalissima Scudetto, ok? Cosa che a Milano, diciamo, anche gli ultimi due anni, dove aveva Siena, diciamo, anche la Siena dell'anno scorso era una squadra normale, un club normale da un punto di vista forse meno che normale, e quindi però in sei titoli Milano ne ha vinto uno solo. Certo, e poi in gara 7 contro una gara 7 contro di te, mannaggia, subito dopo. Senti, che effetto ti fa vedere che comunque ci sono quelli che ritornano? Prima parlavamo con Berinelli della Fortitudo che torna, insomma, dall'inferno torna anche Siena, tornerà sicuramente anche Siena. Sì, penso che sia molto bello. Per esempio la prossima Lega 2 è una Lega dove a livello, penso, di per il club il numero di campionati di Serie A che hanno giocato e penso che sia superiore se si escludono 4-5 squadre della Serie A. Questo è bello, come penso che sia altrettanto bellissimo che due squadre che non hanno mai vinto lo Scudetto stanno facendo la finale Scudetto, due squadre che hanno l'allenatore sulla stessa panchina per il maggior numero di anni, e questo penso che siano due, non segnali, due fatti. Sì, hai ragione. No, beh, Reggio Emilia-Sassari è la finale che nessuno si aspettava. Tu come stile sei più vicino a Reggio Emilia o a Sassari? Non sto parlando di fare il tifo, ma ti identifichi più con l'uno o con l'altro? Io con Reggio Emilia, l'ho dichiarato. Ma io devo dire che sono sempre rimasto colpito. A me è una squadra che piace tantissimo Reggio Emilia. Ma a me piace anche Sassari, allora facciamo così, a me piace, vuol dire chi arriva in finale ha grandi meriti. Penso che Reggio Emilia ha una sua identità che è, oltre che un discorso di sviluppi tecnici, è legato a un giocatore che da quando ho incontrato per la prima volta a Pavia in Lega 2 amo, che è Andrea Cinceri, che credo che faccia, si parla tanto di Cauchenata e Ladrinovic, ma è Andrea Cinceri l'anima di Reggio Emilia. Dall'altra parte c'è una squadra che sa aprire il campo come poche, sa vincere tirando da tre punti, perché si vince e non si perde tirando da tre punti, e così come Sassari, quando non ingrana, quando non ha continuità, può perdere anche di 20 punti in un tempo, come è successo contro Reggio Emilia. Sì, Sassari, guarda, nella semifinale con Milano mi ha sorpreso. Era tangibile la differenza di energia che c'era tra le due squadre. A rimbalzo offensivo, su ogni pallone vagante arrivavano prima due di Sassari e poi terzo o quarto qualcuno di Milano. Verissimo, verissimo. E penso che hai ucciso il mostro, ok? E quando uccisi il mostro, un appagamento c'è di sicuro. E quindi è vero che anche Reggio Emilia aveva vinto gara 7 in trasferta, eccezionale, onda emotiva sopra gli incidenti, ma quando hai ucciso il mostro la pancia è più piena, e in gara 1, al di là della sente della Val, che è importantissima, anche quello forse può spiegare la differenza di energia che si è vista in gara 1. Certo, un'ultima cosa, Marco, leggo da varie parti il tuo nome per un ritorno in panchina. Io non dico nulla, tu hai qualcosa da dire? No, non ho ancora nulla da dire. Non hai ancora nulla da dire. Una cosa però la vorrei dire. Sì, tutto quello che vuoi. C'è qualche cosa che mi riterebbe, visto che fate una bella trasmissione di analisi. I signori di Golden State, che magari vanno a vincere il titolo NBA, magari anche stanotte, sì, hanno tolto un giocatore da 24 e rotti minuti, Bogut, passandolo a zero, rivoluzionando una cosa tattica. Io penso che questa è qualcosa di unico, qualcosa che rovescia e soprattutto pone che con le idee si può vincere. Questo sì, secondo me è un argomento che vi butto lì. E volendo stare lì c'è anche Blatt che conosciamo bene, che adesso è sulla croce perché ha detto: no, tolgo il mio centro, tolgo Mozgov e vediamo come va. Male, non, cioè, certe volte anche cambiare in maniera così profonda nel corso di una serie di finale è pericoloso. Sì, devo dire che l'ha fatto Steve Kerr, che era, aveva il record migliore con Bogut che giocava 24 minuti bene, e si è rivelata una cosa vincente, perché l'ha fatta quando Golden State era sotto 1-2. Se lo fai magari di replica, replichi all'idea, e io spero sempre che vincano le idee. Certo, grazie Marcone, ti abbraccio. Grazie a voi. Ciao Marco Bravo. Crespi, ciao Marco Crespi, grazie davvero. Allora, stasera gioca la nazionale di calcio con il Portogallo, partita amichevole, imperdibile, ragazzi, siamo a metà di giugno. Conte e Bonucci cosa hanno detto? C'è un ricambio generazionale davanti. È un momento sicuramente in cui non abbiamo un punto di riferimento, il vero bomber, no? Cosa che c'è sempre stata nelle nazionali passate, più di uno. Noi stiamo lavorando, sono tanti ragazzi, hanno grande voglia, anche ragazzi, per dire, come Pelé, che hanno trovato la nazionale solamente a 30 anni, però hanno voglia, e ci auguriamo anche che il prossimo anno ci siano delle conferme per alcuni come Zaza, Immobile. Con Prandelli e per il Mondiale i presupposti di partenza erano ben diversi da quelle che poi dopo si sono rivelate le capacità della squadra di mettere in campo quello che veniva provato in allenamento. Per quanto riguarda, è vero quello che dice Antonello, forse abbiamo sprecato un po' troppo tempo a fare test, analisi, mattine passate davanti ad un computer che sul campo, dove forse c'era ancora di più bisogno di provare, perché come ha detto proprio adesso il mister, quando c'hai poco tempo a disposizione devi sfruttare quel poco che hai, e credo che questo sia stato anche quello che è mancato per amalgamare bene il gruppo. E allora abbiamo sentito Conte e Bonucci che è tornato sul mondiale dell'anno passato. L'Antonello, cui avete sentito, vi faceva riferimento, è Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, che in un'intervista ha detto che al mondiale hanno passato troppo tempo davanti al computer a fare simulazioni, test e cose di questo tipo, piuttosto che sul campo per cercare di costruire una squadra, e Bonucci ha semplicemente confermato. Poi i nostri ascoltatori la sanno lunghissima, c'è Luca da Milano che scrive: deciso, è già fatto, Icardi alla Juve per 31 milioni. Questo messaggio me lo tengo, vediamo se Luca avrà avuto poi ragione. Patrizio Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Magari questa domanda viene già stata fatta, però purtroppo non posso sentirvi sempre. Volevo sapere, per il caso mercato della Juve, si parla tanto di attaccanti e basta, ma per la difesa hanno intenzione di fare qualcosa, visto che comunque la carta in testa ingiallisce anche per Chiellini, Barzagli e compagni? Io credo non bisogna sentire qualcosa riguardo al rafforzamento della difesa. C'è Rugani che dovrebbe tornare a casa, salvo scambi di mercato. Rugani ha fatto una grande stagione con Sarri ad Empoli, Secondo voi è pronto per un campionato e una Champions che deve affrontare la Juve? No, ma si fa tanto per cominciare. Io credo che la Juventus non stia dormendo sul mercato, e credo che in questo momento sia alle prese con il tentativo di risolvere la questione Tevez. E poi io credo che un tassello alla volta sistemerà la difesa, ma anche il centrocampo, perché abbiamo parlato di difesa, ma anche il centrocampo della Juventus ha bisogno di una rinfrescata, ha bisogno di una sistemata. Penso che Pirlo andrà via. Ci sono comunque giocatori come Vidal, che hanno dato tantissimo, probabilmente rimarrà, ma anche lui non è più fresco come una rosa. Vediamo che cosa fa Pogba. Penso che siamo soltanto all'inizio, non penso proprio che la Juventus trascuri il capitolo difesa. Allora, ci vediamo qui, grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Gianmarco Ferronati in regia, a Giovanni Melchiori in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati, ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.